jemeri agafuna kunena agidesi inagwana tabgera nikuno agafuna kunena chalamanda inagwana tabgera nikuno agafuna kunena agidesi inagwana tabgera nikuno Sinari choncho kare ntawi ya Napolo Napolo Iwachabe Napolo Iwachabe Wachabe Napolo Wachabe Watenga ingalamu Ingalamu Ukata ya kumchenga Kutuma kaidu ukatoa Kobela dona nalila maiwe Wachabe Napolo wachabe Napolo wachabe Tumalizendi Buffalo Soldier Buffalo Soldier Buffalo to America Buffalo soldier, Buffalo to America. When I was a young boy, I dreamed of the in America. When I was a young boy, imagine a young boy, I dreamed of the in America. Oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi If I had much money, I'd go to sea in America. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,